L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. E va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora voglio chiedere a Parenzo, hai avuto da tuo padre un'agendina nera con i numeri di telefono che dovevi chiamare? L'hai avuta o no, Parenzo? Te la ricordi la tua prima raccomandazione? Sì o no? Tuo papà te l'ha dato il libricino nero? E se ce l'hai ancora, perché non te lo infili nel culo? Te la ricordi la tua prima raccomandazione? C'è una querela da fare perché alle 19.27 ha chiamato uno dicendo che sono un raccomandato e un cane. Puoi procedere per cortesia, avvocato Trucco? Immediatamente. Stai zitto, ciuccia cazzi. Cruciani, vi stanno arrestando tutti a Radio 24. Ti sei già trovato in un'altra radio? Amico mio, mi raccomando, Caro David, caro David, eccoci qua. Che ridi? Cosa ridi? Ma, ma ti vedo qui da Roma, ma come sei vestito? Io vestito come? Ma mi sei vestito da carcerato, ma sei pazzo, mi faccio trovare pronto, come dire? Ma no? Come mi faccio... pronto? Ma sei da carcerato ti sei? Ma che ma sei oggi pazzo hanno indagato sei? Tutti qua, mi devo far trovare pronto, no? Hanno tutti indagati, dal direttore fino a ma ex amministratori. Siamo qui con le mani pulite, le mani in piedi, le mani pulite, guardate. Sì, ma io le intanto mani, mi faccio pulite. Trovare, io intanto mi faccio trovare pronto ma per qualsiasi pronto? Evenienza. Per qualsiasi evenienza. Ho anche le manette, già pronte. Sì, sì, senti, te lo ricordi? Il tintinnio di manette quando si diceva in altri contesti, quelle tu le manette. Sai che devo dirti la verità, che non l'ho mai usate le manette. Non è vero? Non le ho mai usate. Ma davvero? Non ho mai usate le manette. Pronto il titolo per domani, caro direttore Cruciani, due punti, mai usato manette per fare sesso. Mai usate, mai usate. Comunque, mi sono fatto trovare pronto qui con un vestito da carcerato. Ma togliti quel vestito ridicolo. Ma no, è bellissimo. Un vestito da carcerato, ce l'avevo come cosa di carnevale. Mi sono fatto trovare pronto. Ragazzi, non si sa mai qui quello che può succedere. Intanto mi faccio trovare pronto. Mi faccio trovare pronto. Io sono con la mia grisaglia confindustriale solita invece. Vabbè, la cosa più seria invece sì. In realtà... Ma ti pare che un conduttore, che uno in un giorno come questo si veste da carcerato? A me manda i matti sta roba qui proprio, perché ti devi vestire da carcerato? Potevi metterti un'ottima grisaglia, no? No, ma scusami, avevo questo vestito, ho pensato, mi faccio trovare pronto. Qui è successo un grande caos oggi, come sapete. Molti di voi sanno, magari molti di voi non lo sanno, perché in realtà, cioè, non è che la gente si occupa voglio, di quello che succede qui al Sole 24 ore, no? Cioè, la gente non se ne occupa. In ogni caso, io mi sono fatto trovare pronto, perché in realtà dovrebbero arrestare me, capito? Questo è il punto. Arrestato nessuno, siamo qua alla pannella. In realtà arrestate noi, siamo qui, arrestateci. No, ma la trasmissione andrebbe chiusa però effettivamente. Appunto, cioè, io dico... c'è una cosa che dovrebbero fare, quella di chiudere immediatamente questa irradiazione radiofonica, questa trasmissione qui. Collegamento, attenzione, fermo. Sì. Mario, ci sei? Mario? Pronto? Mario, ci sei? Mario Capanna, pronto? Ci sei? Attenzione. O no? Sì, Mario. certamente. Sì. Ecco, qui. Dimmi. Allora, mi risulta che stamattina la sede del Sole 24 Ore è stata attenzionata dalle forze di polizia. Sì, è vero, allora, è vero. Messaggio alla nazione: stiamo convergendo con le silenzio, con le compagne e i compagni. Stiamo dal mio casale in Umbria. Stiamo procedendo a marce forzate verso il Sole, coi soldi del vitalizio, ovviamente. Stiamo arrivando presso la sede di Viale Monterosa, dove occuperemo finalmente la sede già e gestiremo noi un nuovo giornale. Il nuovo giornale. Come intanto, lo chiami? Intanto non si capisce perché lo chiameremo La Violenza, il giornale, perché è una canzone degli anni 70 che mi ricorda, che si canticchiava quando eravamo con Lotta Continua e Potere Operaio, si chiama La Violenza, era un piccolo elogio della violenza di piazza, altro che questo Sole del 24 ore, ma il Sole... Tra l'altro, che titolo è il Sole 24 ore? Partiamo da questo, che nome è di un giornale? Un conto, ho capito, ma un conto è dire ad esempio che so io La Repubblica, benissimo, La Repubblica è quella italiana, ottimo, ci può stare. Un conto è Il Fatto, ad esempio, non si chiama Il Fatto Quotidiano, mi pare evidente, no? Un conto può essere anche Il Corriere della Sera, usciva alla sera, ma il Sole 24, che cazzo di titolo è il Sole 24? Vabbè, adesso non ci mettiamo a questionare pure su queste cose. E chiamiamolo La Violenza, direttore Mario Capanna, meraviglioso. Allora, intanto ragazzi, la violenza c'è sul serio, c'è sul serio. A Lodi, un ristoratore ha ucciso e ha fatto benissimo. Eccolo te lo qua, dico subito, ha fatto qua, benissimo. Ha sparato alle spalle. Ma cosa e ce ne freghiamo noi che vogliamo. Ma perché, la perché devi prendere parte subito? Sì, perché devi prendere noi parte? Vogliamo... È un terribile fatto di cronaca, io non voglio criminalizzare né chi ha sparato in questo momento, che dovrebbe essere, che sarà comunque indagato, ovviamente, come è ovvio. Cosa fai con le manette? Tintinnio, mi piace il tintinnio di manette. Ma dai, vabbè, comunque, ma io prendo parte per un fatto molto semplice: che questo ladro è entrato insieme a dei complici dentro l'osteria di questo signore di Lodi, 67enne di Lodi. Questo qua che abita sopra è sceso, abita sopra con la moglie, con i nipoti, con i figli. È sceso e ha sparato alla schiena. Me ne fotto. Noi che vogliamo la protezione assoluta della proprietà, dei beni personali, della propria casa, ce ne sbattiamo. Va bene, ma non c'è da fare il tifo adesso. Io faccio il tifo ci per questo signore. Ci sono già le leggi che stabiliranno se è stato un eccesso di legittima difesa o no. Io voglio che questo signore che ha sparato dentro la sua proprietà al ladro che entrava le leggi. Non è Cruciani che lo decide, non è il sultano del Brunei, non siamo in Oman, non siamo in Oman, non siamo nell'Oman, siamo in Italia, quindi c'è già una legge che decide qual è la legittima difesa. Pare che abbia sparato alle spalle. Sparato alle spalle, vabbè, con la moglie che gli diceva metti giù il fucile, sembra, da alcune testimonianze, il figlio che diceva ma perché hai caricato il fucile. Beh ragazzi, a me dei dettagli non me ne frega niente, e come ha detto un assessore non so dove, sinceramente non provo nessuna pietà perché anch'io non provo nessuna pietà perché per quello che è morto. Che pietà devo provare? È andato a rubare dentro un'osteria, dentro un posto. Quello ha reagito, forse ha reagito in maniera esagerata, forse non poteva, poteva anche non sparare, non lo so. Ma che ne sai di quello che può succedere? Che ne sai di quello che può accadere, amico mio? Non lo puoi sapere, non lo puoi sapere. Voci da Lodi, vai. Io ci ho chiesto a Mario: Mario, l'hai preso? Fa, sì, sì, l'ho preso. Ho sentito una cosa, ma non vorrei dire che se fosse, se lo sparo che è, se le sparo la fai bene. Per me, dici, noi siamo padroni di casa, siamo no padroni. Intanto ti posso dirti che, per quello che penso io, che una persona che ha sparato, come avrei fatto io, perché anch'io ho i fucili regolarmente denunciati, perché sono calciatore anch'io, l'ho dichiarato diverse volte, l'avrei fatto anch'io. Senz'altro posso dirti che non l'ha fatto con intenzione di uccidere. Allora, le premesse per la visita di Salvini domani a Napoli, che è una cosa democratica, signori miei, adesso uno può pensare tutto il male possibile di Salvini, può dire che è un che è uno che fa brutta politica, al limite può anche dire che è razzista, ecco. Può anche dire che è xenofobo, ma finché non, qualcuno non lo mette fuori legge, ha tutto il diritto ma di certo. fare un comizio a Napoli, ma certo, diciamolo ci chiaramente, altro. Io non sono contro quelli che dicono difendo che è xenofobo. Il diritto, io difendo il diritto di Salvini di fare il comizio, come difendo il diritto di quelle persone di contestarlo nei limiti della civiltà, ovviamente senza fare gazzarre, certo, ma nessuno dice ma che non hanno bisogna diritto fare... a fare le contromanifestazioni per Matteo Salvini, per la presenza di allora, Salvini a Napoli. Se però un sindaco come De Magistris dice che è razzista e xenofobo e sta dalla parte dei cosiddetti movimenti, puoi dire i movimenti, ma chi cazzo è i movimenti? Ma movimenti, gente, cioè, che si dici, muove, io sono dalla parte di sì, esatto, gente sono che si dalla muove. Parte dei movimenti, i movimenti, cioè dalla parte di, dei centri sociali, ma chi rappresentano? Hanno degli organi decisi da qualcuno? Chi sono vabbè, i movimenti? Ma mi fa impazzire a me questa cosa qua. Io, noi stiamo con senti le manette ogni tanto che si muovono. Ma perché non ti togli quel vestito da carcerato? No, perché dai. Mi sto preparando, perché non si sa quello che succede da qui alle 21. Ma cosa vuoi che io succeda? Io intanto sono pronto. Chi è che mi telefona? Sono pronto, sono pronto. Chi è? Scusa? De Magistris e poi Salvini, vai. Salvini, che è stato sempre di quello che diceva scappate che arrivano i napoletani che puzzano, Napoli colera, non fittate la casa ai napoletani, adesso vuole, come dire, in qualche modo far vedere che lui è amico dei napoletani e dei meridionali, così come i napoletani non si sono fatti fessi dall'altro Matteo nella scorsa campagna elettorale, non si fanno certo abbindolare da una persona che è profondamente razzista e xenofoba. Quindi come la mano Salvini non gliela dà. Ma se lo incontro così, sì. Attenzione, mi ha mandato un messaggio Salvini, il quale mi ha detto: domani mi vietano il comizio a Napoli. Attenzione, attenzione, fermi tutti, pubblicità, poi magari lo chiamiamo. Fermi tutti. Ed ora Donald Traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, io non sono aggiornato, però mi ha aggiornato l'interessato, magari era già stato comunicato, non lo so, ma no. Sembra che il comizio di Salvini possa essere annullato, il comizio, male. Insomma l'intervento di Salvini, meno male che la pensi allo stesso modo, Parenzo, ma ci mancherebbe io altro, trovo ma posso... tutto questo, ma una cosa, come sostenuto... sono legittime le proteste, trovo che... veramente una cosa assurda. È un partito fuori legge? No. Allora, ma... è un partito che si presenta alle elezioni regolamenti? Sì. Ha diritto di fare i suoi comizi, ma questo io non ho mai messo in dubbio. La mia battaglia è sulle idee, vabbè, rispetto vabbè. A Salvini, Matteo, ovviamente. Eccomi Beppe, no, l'ho comunicato per primo a voi perché è una cosa che non mi è mai successo in 25 non anni. Non c'è dubbio, di sbagliato. Politico. Cioè, che è successo? Ti hanno, sì, ti hanno comunicato chi? La questura? Chi? Ma sai qual è la cosa incredibile? Lo dico agli ascoltatori, soprattutto da Napoli dintorni. Noi abbiamo firmato un contratto anche parecchio oneroso, da 5-6 mila euro, che ci mettiamo di tasca nostra ovviamente, con la mostra d'oltremare, che è la fiera sì. di Napoli. C'è stato un comunicato 10 minuti fa del capo dei centri sociali. Tal Alfonso De Vito, portavoce dei centri sociali, che non si sa bene... che spiega a me, al mondo e ai giornalisti, che la fiera rescinde il contratto con me, pagando la penale, perché non ci sono le condizioni per fare il comizio, ma i centri sociali che stanno occupando la fiera di stamattina nel menefreghismo del sindaco, del questore, del prefetto, di tutti quanti, dicono: noi comunque non siamo contenti, continueremo a presidiare la fiera... mica che Salvini voglia venire a Napoli lo stesso. Questo è pazzesco. Cioè, non ho capito, per cui non c'è... c'è lo Stato. Scusa, sì, ma a Napoli comandano i centri sociali. Sì. La camorra, la ma te chi te l'ha detto? Te l'ha detto la polizia ufficialmente? No, comunicato del cosa ha detto? Comunicato della fiera che rescinde. Ma nessuno ha detto niente. Ma la questura non ti ha... Sì, ma se uno fa un contratto per andare a parlare lì e quello glielo rescinde, non è che può andare a parlare in mezzo alla strada. È chiaro che no, se uno... io ci va... no, beh, tu ci vai lo stesso o no? Io ci vado ovviamente lo stesso perché non siamo a Cuba, non siamo in Unione Sovietica, non siamo e dove in vai a parlare? E dove vai? Siamo in democrazia, vado lì, se non mi fanno parlare dentro parlerò fuori, ma vado lì, primo perché amo la libertà, secondo per rispetto dei circa 3.000 napoletani che hanno già mandato la loro prenotazione per essere presenti. Io cosa gli dico? Chiamo uno per uno queste 3.000 persone dicendo: no, scusate, i centri sociali e il sindaco non hanno piacere. Ecco, d'altra parte, devo dire la verità. Adesso, io grande rispetto per De Magistris, anche se la penso in maniera diversa da lui, sicuramente uno che è stato eletto sindaco con deve grande... garantire, te lo dico io, il sindaco deve garantire... Ma ha detto che è nazifascista, gli Matteo... ha detto. Sì, ma io te lo dico da persona che, come sai, ho sempre battagliato con Salvini, ma il sindaco in questo momento deve garantire che Matteo Salvini, che è distante da me, deve sociali. No, ma è sbagliato, deve intervenire Minniti deve intervenire e deve garantire a questo a Salvini, che per me dice delle cose aberranti, ma di parlare quello? No, ma lo dico io, deve poter parlare Salvini. Ma scusa, ci mancherebbe ma altro, uno ma certo non condivide le mie idee, ma non c'è settimana dubbio prossima paga la fiera, prenota la fiera, non c'è dubbio, va a spiegare le sue idee e poi i napoletani decidono, è meglio questo è meglio quello. Senti, ho sentito una cosa. Ho sentito una poi cosa è oggi. Giusto protestare. Ho sentito una cosa da parte di qualcuno oggi in una trasmissione, ma insomma è una cosa che pensano in molti. Che sostanzialmente tutta questa cosa, tutta questa caciara ti conviene alla fine. Cioè, conviene beh, a Salvini. Ma io sto preparando. Questo sicuro. Devo incontrare i genitori di 70 bambini autistici, la cui sperimentazione ospedaliera scade, rischiano di essere in mezzo a una strada fra 15 giorni e hanno chiamato me per dare una mano. E a me conviene. Ho parlato con i lavoratori del porto, con i ricercatori universitari, e io cosa faccio? Non vado domani perché ci sono i centri sociali che non mi hanno in simpatia, ma non mi è mai capitato in 25 anni di storia una roba del genere. Cioè, non ho capito, tu non hai ricevuto una telefonata ufficiale da parte della del questore, no, eccetera, che ti dice no, il comizio non si può fare per motivi di sicurezza locali, che erano in prefettura, che hanno saputo questo dal portavoce dei centri sociali. abbastanza incredibile. Se è andata una così. Repubblica fondata sui centri sociali, sì, sulle minacce, sì, sulla violenza, sull'occupazione abusiva, sì, sì, ma è una roba. Guarda, cioè, per cui aspetta, veramente... no, ma dove vai domani? Non ho capito. Ci sono 3.000 persone che mi aspettano. Ci vado, 3.000. Non mi interessa se mi conviene o non mi conviene, non spetta a me garantire. E se qualcuno ti dice non è sicuro andare a Napoli, la questura ti dice meglio non venire a Napoli. Ma siamo su Marte. No, ma figurati, ma uno. Cioè, non ho capito. Allora, la cosa è questa. Con problemi di disoccupazione, di abbandono scolastico, gli ospedali che chiudono, la camorra che chiede il pizzo, il problema è Salvini che fa il comizio. Allora no, però ma questo qua, vabbè, su questo siamo d'accordo. La cosa, sono d'accordo, la cosa che voglio sapere è un'altra, cioè ufficialmente, dunque, la cosa è questa: ti hanno comunicato l'ente fiera da cui avevi affittato lo spazio. Sto parlando con voi, intanto sotto mi stanno arrivando 12 telefonate una via l'altra che mi vorranno raccontare quello che io sto raccontando a voi per il rapporto che abbiamo. Visto che stavo tirando le testate contro il muro, ho detto: con chi parlo? Con la Zanzara. Ma adesso mi chiameranno dicendo: onore, cosa intende fare? E io intendo fare quello che faccio. Ma la tua scorta cosa ti ha detto, però? Cioè, la scorta garantisce la sicurezza. E se c'è bel tempo, visto che la città è bella, vado a fare due passi sul lungomare, vado a mangiarmi un cono gelato, vado nei vicoli a mangiarmi una pizza, ma siamo in Italia o siamo su un satellite? A Camorra Land centri sociali land. Io non lo so, ripeto, ma qua accadesse a un esponente del Partito Democratico, di Rifondazione Comunista, dei 5 Stelle, di Forza Italia, sarei il primo a dire sì, non esiste. Non esiste. Sì, per cui ti hanno comunicato questa cosa e la tua decisione è quella: vado lo stesso a Napoli. Vado lo stesso a Napoli. Altro. Mi dicono: ti do indietro più soldi di quelli che mi hai dato. Ma quant'è che ti ridanno indietro? Quando è che ti ridanno indietro? Non lo so, ma non lo so, pagano la penale che c'è prevista dal contratto. Ma secondo te io domani. Ma di chi è la colpa di tutto questo, secondo te? Cioè di De Magistris? Scusa, ma se i centri sociali, vabbè, avanti per una settimana a dire no ai nazifascisti, no ai leghisti, no agli xenofobi, no ai fascisti. Vabbè, è una polemica però, politica. Dov'è il prefetto? Dov'è il questore? Dov'è il ministro? Dove sono le istituzioni? Dove... Non lo so. Ripeto, non mi è mai accaduto né a Palermo, né a Milano, né a Verona, né a Bari. Vabbè, Verona a nord è difficile che accada, ma insomma a Palermo... Ma neanche al sud. Ma scusa, se ci sono 3.000 persone che domani vogliono venire a sentire quello che ho da dire... Il problema è che ce ne stavano altri 10.000 fuori che vogliono fare casino, questo è il punto fondamentale. Ma se sono fuori in silenzio... No, ma è lo Stato che deve... Ma non lo fanno, vogliono fare... Matteo, vogliono fare la guerriglia con la polizia, è evidente, ma è talmente chiaro che vogliono fare la guerriglia con la polizia. Magari ci sarà una parte del comizio contro di te tranquilla e una parte che fa la battaglia con la polizia perché massimo sostegno ai ragazzi e alle ragazze delle forze dell'ordine che non sono pagati per prendersi gli sputi e le sprangate. Ecco appunto, ma se scusami, se la cosa dovesse mettere in difficoltà la polizia, ma no, chi se ne frega, dico, ma no, voglio chiedere allora a Salvini se domani quelli dei centri sociali di Milano decidono che io non vado a fare la spesa al supermercato dietro casa mia perché sono dai su, ma non si può, non è che si può, uno si può arrendere ai centri sociali al fatto che ci sono 10.000 persone in piazza contro Salvini. Sono d'accordo con voi in questo caso. Napoli, comunque lo dico agli ascoltatori napoletani, al di là delle idee politiche, io alla mostra d'Oltremare ci sono. Senti, ha fatto bene a sparare alle spalle, ha fatto bene a sparare alle spalle al ladro, sembra che abbia sparato alle spalle quello là, quello di Lodi. Ma eh? non so dove abbia sparato, io ho sentito molti lodigiani, c'è una sequela di rapine. Sì, di sì, questo l'abbiamo sentito anche noi, sì. Che sono impressionanti. Cioè, ha fatto bene o no a sparare, secondo te? Ma è stato costretto a reagire. Non penso che nessuno voglia. Ma provi pietà per il morto? Questo... Ma provo pietà per qualunque morto, però non farmi piangere, perché se il morto invece di rubare di notte avesse lavorato di giorno sarebbe vivo e ascolterebbe la Zanzara. Adesso che non processino sto 67enne perché ha aggredito per l'ennesima volta in casa sua, non da ma pare fossero 3, 4, 5 persone, peraltro che pare abbiano abbandonato. Sì, hanno abbandonato il morto per strada. Il loro complice in mezzo alla strada, veramente da bestie, da vigliacchi, va bene. Da ciao Matteo, ciao. Viva la libertà sempre, ragazzi! Salvini, che sia per Casa Pound, che sia per i comunisti, che sia per tutti. È assurdo che uno non possa parlare. Anche i comunisti, anche i fascisti, tutti. Lasciati un parenzo e alla defecarsi non ci penso. Devi andare a casa, Parenzo! Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presento La Zanzara. Io per una vita sono stato costretto a rimorchiare donne e a fingere solo per farmela dare. Lì ho fatto il miserabile. Facciamola sta cosa per Susanna, chiamami quando vuoi. Sono un puttaniere e me ne vanto, e me ne vanto. Invece di fare la colletta per quella puttana, no, che non paga le tasse né niente, fare una bella colletta per la mia nonna. Dopo facciamo anche la colletta per la puttana. Cruciani, faccio il capotreno, sono in servizio, però col cazzo che controllo i biglietti, c'è la Zanzara? Dai Parenzo, dai Cruciani. Beh, questo no, eh. Questo non è buono. Bisogna controllare i biglietti, no, sull'autobus, no. Bisogna controllare i biglietti. Se no si finisce come sto io adesso. No, ma adesso togliti quel costume da carcerato e quelle manette, perché sono veramente pronto. Sono pronto a qualsiasi evenienza. Sì, per far chiudere questa trasmissione, per farla chiudere. Certamente. Ecco, qui c'è stato oggi l'arrivo degli inquirenti in questo luogo, qui al Sole 24 ore, l'arrivo degli inquirenti. Arrivano gli inquirenti. Ma tu sbaglio, mi hai detto oggi che comunque resta il nostro figlio di puttana. Com'è la storia? No, la storia è molto semplice. In questo momento la magistratura farà il suo corso, sì, e sì, mi pare che la situazione sia questa qui, quella che ti devo dire. Insomma, ognuno ha le sue cose, come diceva Gheddafi, come si diceva di Gheddafi, com'era la storia? Adesso non mi ricordo. La storia di Gheddafi è comunque, sì, farà qualsiasi cosa, sarà un criminale, sì, sarà. No, ma è criminale sempre, assolutamente. No, no, lo diceva Borghezio. Borghezio di Gheddafi. Ma resta certo sempre il nostro figlio di puttana. Ti piace questa espressione? Stupendo. Ok ragazzi, è veramente incredibile il fatto che abbiano annullato il comizio di Salvini a Napoli. Adesso voi penserete che se l'è andata a cercare. Certamente ognuno è legittimato a pensare che ha raggiunto il suo obiettivo, cioè passare per martire, no? Per passare per il grande martire. In realtà è una cosa grave, se i centri sociali possono, sì, questo, comandare, certamente, chi entra o no a Napoli. Noi ne abbiamo sentiti nei giorni scorsi, ne abbiamo sentiti anche oggi, sì, sì, sì, eccetera. Sì. No, qui a Napoli non entra Salvini, non deve entrare. No pasaran. Questa cosa, no pasaran. Ma io un po' ti piace, no pasaran. Ti assicuro, sì, sono un po' in conflitto, nel senso che da una parte la mia anima capanniana mi dice ottima la protesta. Ho ottenuto un risultato. Bisognerebbe distendersi nei binari dei treni, no? Ancorché per evitare l'arrivo del treno di Salvini, ma arriverà in aereo, ergo andare subito all'aeroporto di Capodichino e buttarsi in massa per terra per evitare che l'aereo in questo modo possa atterrare nel suolo napoletano. Ecco, questa tecnica non violenta potrebbe servire a evitare il comizio. Quindi da una parte io sono per questa resistenza passiva straordinaria di massa, di popolo, di compagni e compagni, di operai, lavoratori, amici del Sole, convergano tutti quanti, non c'è cazzo da fare, sono tutti in sciopero. Gli amici mi pare di capire così, no? Sì, lo sciopero della firma. Vabbè, lasciamo stare che se non mi cacciano anche a me. Comunque voglio dire, amici del Sole 24 ore, giornalisti, firme illustri, abbandonate per un attimo la sede della sede del Sole 24 ore, già disegnata da Renzo Piano, dal, sì, Viale Monterosa, sì, e venite tutti con Mario Capanna a occupare pacificamente la sede di Capodichino. Avete detto che siete in sciopero, non firmate il giornale, almeno facciamo un'azione non violenta che non c'entra un cazzo con le vicende di merito che riguardano questo nostro Sole 24 nostro, ore. Che nostro, non è tuo, Capanna. Questo che nostro ma nostro giornale. Che mica degli operai. Un esproprio proletario, esattamente, bravo. I poligrafici dovrebbero impossessarsi del giornale. Noi negli anni 70, caro amico Cruciani, sì, vabbè, vestito adesso, da carci... c'è rotti, sì, coglione adesso. Basta. Crucia, ma fammi capire, c'è un'inchiesta sul Sole 24 Ore, un'inchiesta che coinvolge il Sole 24 Ore e i giornalisti scioperano? Ma che cazzo di senso c'ha sta cosa? Dai, fai la trasmissione su questo, fammi vedere che sei un vero libero pensatore. L'editoriale di Riccardo da Roma è arrivato. Devo dire la verità, questa volta sono decisamente d'accordo con il signor Riccardo da Roma, però qui ragazzi non ci occupiamo di questa cosa qua che non frega un cazzo a nessuno. Per la prima volta ti dirò, sono d'accordo anch'io con Riccardo da Roma. Beh, il punto fondamentale è un altro. È successa una cosa gravissima a Lodi, e io sono dalla parte ristoratore. Ma non c'è, ma guarda che qui sei matto forte. No, ragazzi. Cioè, ma perché devi fare il tivo? Cosa c'è? Ascoltatori, ascoltatori, ascoltatori. Ma quali ascoltatori? Antonio da Napoli, iniziamo da Napoli. Antonio, vai, Antonio. Pronto? Dimmi Antonio. Ciao, senti, volevo dire a Salvini che non serve che faccia il comizio qui a Napoli. Faccia solo sì, però amico mio, parla bene, ti prego. Io ogni volta ho sto problema qua. Parla bene, ti prego, fatti sentire. Purtroppo siamo così e non sappiamo parlare bene l'italiano. Ma no, parla bene in italiano, parla bene senza microfono, senza no, microfono. Ce l'ho, amico, assolutamente. Vabbè, allora dimmi, ha fatto bene, hanno fatto bene a annullare il coso. Sì, ma che non venga, faccio solo una campagna come la fece Bossi, che vuole dividere l'Italia. Noi lo votiamo, basta che divide veramente l'Italia, capito? Cioè tu vuoi la divisione, vuoi essere lontano dall'Italia tu? No, è lui che se ne vuole andare, ma noi non lo vogliamo. Ma non se ne vuole più andare, una vecchia Lega, non c'è più. Basta, io ho votato Bossi da napoletano, ho votato la Lega Nord quando voleva dividere l'Italia. Speriamo che questo vinca, così divido l'Italia. Ciao, Massimiliano Prato, vai, Massimiliano, vai. Ciao, buonasera Giuseppe. Dimmi, ciao, vedi che si posto? Sente bene, si sente squillante la voce di Massimiliano, cazzo. Senti, vai, no, volevo dire che mi dispiace se Salvini si sminuisce così. Perché? Nel senso, non rimane sulle palle tanto ai centri sociali, rimane sulle palle a parecchia gente. Ma non questo penso è che legittimo. Siano soltanto i centri sociali. Ma lei può odiare, lei può anche odiare Salvini, non è un problema, cioè no, è legittimo. No, lo odio, no, odiare allora? No, assolutamente. No, nel senso che non si sminuisse e poi non si dovrebbe stupire più di tanto per chi pensa ognuno a casa sua. Lui a Napoli non ce lo vogliono e che quei 3.000 ma non ce lo vogliono, ma non ce lo vogliono quattro, non ce lo vogliono una minoranza, quale minoranza? Ma molto ovviamente non lo vogliono. Una maggioranza che non sta a rompersi i coglioni. Poi allora c'è oggi di esaltati che sta a rompersi le palle. Non penso che il prefetto e il sindaco siano lì a piangere perché Salvini non ci va. No, anzi, però probabilmente il modo, no, ma dovrebbero garantirlo andare. Il prefetto, ragazzi, dovrebbe garantire allora che un signore che è a capo di un partito che non è fuori legge possa fare il suo comizio, che io giudico razzista a tratti. Però Massimiliano, ma vuole dire un'altra cosa, che se l'è andata a cercare, giusto? Cioè, con tutto quello che ha detto con tutto quello che ha detto non si può lamentare, non si deve stupire se non ce lo sì voglia, però no? Il problema è che non è che si può fare un sondaggio tra i napoletani, volete o non volete Salvini, no, siccome c'è una minoranza di persone violenta, perché ha dimostrato più volte di essere violenta, certo. vuole impedire che Salvini parli, questa roba qui va impedita e dunque l'istituzione... Sì, ma se nessuno delle istituzioni apre bocca, vuol dire che non sono soltanto questi violenti esaltati che non ce lo vogliano. No, ma probabilmente perché il prefetto e il questore sono contenti dell'annullamento del comizio. Ecco, perché se impedissero di andare a parlare, non lo so, ne dico uno a caso, a Renzi, ma nessuno vuole impedire nessuno. O a Zaia, io sono straconvinto che se Zaia, che è della Lega Nord, va a Napoli a parlare, non c'è questo casino. No, quello sicuro. Claudio Pisa, io non capisco bene se tu giustifichi questo casino o no, Massimiliano, poi alla fine qui vogliamo dire che... Lo capisci? No, un secondo. Io penso e sono d'accordo con voi, nel senso che ognuno è libero di dire quello che vuole, allora, per carità di Dio. Però ti fa pena Salvini che si lamenta? Mi fa pena, ovviamente, ironicamente, lui che si lamenta. Va bene, Claudio Pisa, vai, Claudio Pisa. Tintinnio di manette, tintinnio. Claudio da Pisa, vai, Claudio. Sì, senti, mentre aspetta, siccome io scrivo per un giornaletto di satira, mentre aspettavo per dire quello che mi sono messo in nota, mi è venuta in mente una battuta stupenda. Voi dovete cambiare il titolo al Sole. Invece che Sole 24 Ore si dovrebbe chiamare Il Sole a Quadretti, perché andrete tutti in galera. In galera ci vai tu. Il Sole a Quadretti. Il Sole a Quadretti, che stronzata, dai. Non fa manco ridere. Non fa molto ridere. Non fa nemmeno ridere. Che vuol dire Il Sole a Quadretti, poi? Spiegami, che vuol dire Il Sole a Quadretti? Il Sole a Quadretti è quello che si prende dietro le sbarre, no? Sì, ho capito, ma Il Sole a Quadretti non è che un'immagine particolare, non fa ridere. Questa roba mi spiace qui. Per vabbè, te. Claudio, che volevi dire? Perché probabilmente ci avete dei problemi. Ma perché un se dirigi un giornale satirico, il tuo giornale è fallito sicuramente, perché se le battute sono queste, ma pare un giornale. Vabbè, dai, Claudio, che vuoi? Senti, volevo parlare di quella tragedia di quei due poverini, marito e moglie. che sono morti solo da 14. Allora? Bene, lì ci lavorava, io ho sentito al TG, che dicevano, allora loro, vabbè, due italiani morti e meno male, per miracolo, tre rueni operai sono rimasti. Sì, allora? No, cioè volevo dire, ma dov'è il miracolo? Il miracolo era se si salvavano i due italiani e crepavano quelli che probabilmente lavorano male. Cioè, non ho perché capito. Quelle sono dite di rumeni. Claudio, stai facendo il direttore del giornale satirico oppure stai dicendo sul serio? No, no, non sono direttore. No, perché a me questa gente... Cioè, guarda, avresti preferito che morissero i rumeni, gli operai rumeni, piuttosto che i due italiani? Non ho capito. Oh, porca miseria, perché? Ah, sì o no? Ma come? Ma certamente, cioè... Ma che cazzo vuol dire? Scusa, sempre vite umane sono, cioè morivano gli operai rumeni invece di... No, sono vite umane, ma se erano perlomeno due italiani e un rumeno... Due rumeni, no, tutti rumeni sono. Beh, allora non ce l'abbiamo più i muratori in Italia, non ce l'abbiamo più. Vabbè, ho capito, però, ma che cazzo c'entra? Quelli che sono morti, cioè, sì, ma probabilmente perché lavoravano male, perché lì ora ci Ma che ne richiesta. Sai? Ma che c'entrano questi qua comunque? Ma poi se ne riparlerà, dai. Questo è un cretino, Cristian Mantova. Cristian Mantova, solo a quadretti, sì. Cristian Mantova, vai. Pronti. Ciao Giuseppe, ascolta. Innanzitutto io volevo dire che per quanto riguarda il tabaccaio oggi di Lodi, che ha fatto innanzitutto... Ristoratore, non era un tabaccaio, c'era un ristorante, vabbè, uguale, dimmi. Ha fatto benissimo a sparare al ladro, e la cosa che a me potrebbe dare molto fastidio, che darebbe fastidio, è che adesso non incominciamo con l'agonia mediatica da parte dei magistrati. Ma io non so se ci sarà una gogna, in questo momento c'è grande solidarietà più che gogna, diciamo. All'esterno c'è grande solidarietà. Il punto è che gli ha sparato alla schiena. Verrà accertato dalla magistratura, comunque. Cominceranno a dire non si può sparare alla schiena, e qui, e su, e giù. Io sono dalla parte di questo tizio qua, perché questo qua si è difeso nella sua abitazione, nella sua proprietà. Ma non è il derby Lazio-Roma. Ma non ti senti un po' solidale? Ma non è un Io lo spero che non finisca con questa roba qui, capito? Finirà con le manette. Spero che non finisca in manette, eccole qua. Che se muore una persona anche, ecco, con le manette, gioca con le manette. Usale stasera con qualche amichetto, con qualche fidanzata, con Fbal, con chi ti pare. Ma che c'entra, cara F? No, dico in generale con quello che vuoi tu. Però voglio dire... Sì, fermo, c'è tempo. Adesso la botta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Come lotti, Parenzo, come lotti. La maggioranza silenziosa t'appoggia. Te voglio bene. Come lotti, come lotti. Dillo voce. Ok, è un frocio. È un chi? Parenzi o un frocio? Parenzo. Parenzo, È un gran frocio. È eccezionale. Cruciani? No, Cruciani è etero, però è un coglione. Ah, ottimo, veramente ottimo, veramente ottimo. Mandatelo pure, perché non va è bene. Un problema. Cruciani, mi stavi sul cazzo, però invece adesso non riesco a addormentarmi senza il tuo podcast. Porca Giuda. Allora Parenzo, quello che hai sentito a un certo punto, quello che ti dava del froce a me del coglione, è un gruppo rock fantastico, un gruppo rock che gira per l'Italia. Bene. E che ogni tanto ci manda dei messaggi e che verranno querelati per diffamazione alle ore 19. Ma mica una diffamazione se ti dicono omosessuale, scusa. Sì, amico mio. Ma no, ma assolutamente. Alle ore 19, non essendolo, scusami, alle ore 19 e ho le prove anche. Alle ore 19:34, avvocato Trucco, aspetta che lo chiamiamo. Ancora insiste. Sta silenzio. Chiamalo, avvocato Trucco, Emilio Trucco, avvocato, è stato commesso un nuovo reato. Vabbè, tanto dai. Qui ormai mi pare che la polizia sia di casa in questo giornale, no? Un po' sì. Scusami, ho detto una cosa forse che non si doveva. Però chiama. Squilla il telefono. Risponde, avvocato Trucco, chissà cosa starà facendo. Sì, lo so. Parenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Un'altra. Avvocato, scusami, siamo in diretta alla radio. È stata commessa un'altra diffamazione aggravata. Mi hanno dato dell'omosessuale in diretta. Ma che non facciamo? È un reato. Interveniamo? No, questo però loro hanno ragione, quindi secondo me... Come hanno ragione? Che cazzo dici, avvocato? Potremmo accettare. farla questa critica che viene fatta. Ma non è una critica, lo sai bene. Non lo sai. Non è un'infamia. Lo sai che sono orgogliosamente eterosessuale, lo sai, avvocato. Ho ragione, quindi potremmo accettare. Questa no, questa querela non te la faccio. No. Adesso chiamo un altro avvocato. Ciao. Ciao. Basta, licenziato trucco. Via, via. Rami secchi, via. Allora ragazzi, Alberto da sì. Milano. Alberto da Milano. Sentiamo Alberto da Milano. Anzi, c'era ancora comunque Cristian Mantova. Ho le prove che non sono omosessuale. Ma non è un'infamia. Non è un'infamia, ma non è vero. Le porterò. Sciocca la zanzara. Parenzo insulta i gay. Cioè, non sono come loro. Esatto. Ma è come se dicessero. Ma scusa, come, a parte è che come, non lo sai. È come se dicessero a te che sei monogamo. Va bene? Non vabbè, sei monogamo. Tu non è che querelo. Tu io, sei ma per non il pluriamore. Ma no, perché non sei monogamo. Tu sei per il pluriamore. Poliamore. Attenzione. Poliamore. Scusami, che non è Riccardo Poli. Salti da un letto all'altro. Ma ti piace vedere la tua fidanzata che fa l'amore con un altro? Sì, tendenzialmente. A me sta roba fa schifo invece. Ma vabbè, che c'entra? Ma no, mi fa ma schifo. Ma se me lo dico non è che porto qualcuno in tribunale. Ma lo porti in tribunale perché ti diffama. La monogamia per te è diffamante. Ma no, assolutamente. Capito? Oh. Vabbè. Allora, Cristian parlava prima, poi Alberto. Vai, Cristian. Pronti, allora. Sì. No, io stavo dicendo appunto, no, che avevo detto che ha fatto benissimo innanzitutto a sparare. Perché poi? È ora ecco che un altro. No, ma com'è che un altro? Fatto benissimo a sparare, fatto benissimo. Ma è ora che in Italia. Pistolero qua. È pistole, ma dai, andiamo. Anzi, allora, un pistola, come dicono a Milano. Un pistola pistolero a Milano, guarda, direbbero. Ma dai, ma che sparatore di minchiate. Ma scusa, ma sei un pistola, no? Nel vero senso della parola. Ma come si fa a chiamare essere felici perché uno ha sparato? Assolutamente. Un ma, sono, ma che roba ma è? Ma che barbarie è? Ma ha sparato a un delinquente. Ma siamo d'accordo. Ma non c'è la pena. Ma non c'è la pena di morte qua. Non c'è la pena di morte. È in Oman, è in Arabia Saudita. Non per qui certi reati, ma per non certi c'è reati, va messa avanti, la pena ancora di morte, va ripristinata la pena di eccolo morte qua, eccolo reati qua. Sono la pena di morte, ma eccolo qua, tipo ma quali reati qua. La pena di morte, lei scusa, è un pistola, è un pistolero, pistola lei, ma che pistolero, a Milano guardi cosa vuol dire pistola a Milano, è un pistola lei, ma va, ma fa la finta minchiarola, stai zitto e fai parlare gli altri, pistola. Senti, tu conosci il signor Mauro da Mantova, dato che chiami da Mantova, ma Mauro da Mantova, ma che cosa c'entra se io conosco Mauro da Mantova? Vabbè, fammi chiedere, ma che cazzo vuoi? Ma non posso farti una domanda? Scusa, ma che sei matto? Ma non c'entra se io conosco Mauro da Mantova. Lo conosci o no? Ma vabbè, ma so chi è, vabbè, ma non c'entra. Non c'entra, adesso vuole parlare non per forza del tavolo. Io sono d'accordo con te, tra l'altro. Per cui che vuoi? Cioè, non sto dicendo. Ha fatto benissimo a sparare, ha fatto benissimo anche alla schiena, ha fatto benissimo. Alberto Milano, ciao Cristian, Alberto, vai. Allora, io ogni tanto, a seconda di come va il lavoro, affitto una signora prostituta per vederla insieme, scusate il mio cane, per vederla insieme a mia moglie. Questo è buono. Cosa vuol dire? Intanto la parola affitto riferita a una persona e non a una casa o una macchina. Quale parola devo prendere, signor Parenzo? No, Parenzo, ma infatti mi... Cominciamo con ecco, noleggio riguarda gli oggetti, non le persone, capito? Le auto, per esempio. Affitta una prostituta, non ci formalizziamo, però basta con questo formalismo. Se mi dice qual è la parola, io cambio, Sì, si dice vado da una prostituta, prendo una signora prostituta, la quale per una cifra che io ritengo discreta, 400 euro ogni tanto, la vedo con mia moglie, arriva al motel con Mercedes, mi sembra una persona tutt'altro che schiava, ma magari a dire se a sua moglie piace così, ragazzi miei, ma mi avete una... un attimo, no, ma per carità, commenti, è che in questo no? posto, adesso sto zitto, ma in questo posto sembra tutto normale questa roba, sembra normale che uno ha una fidanzata, apre la porta, la trova montata da un altro, e Cruciani dice ma sì, è maleducato, arrivederci, no aspetta Alberto, ma che cosa richiama Alberto. Richiama Alberto, vabbè, non conosce come funziona la trasmissione perché voleva parlare, ma noi parliamo così, che cazzo vuole pure Alberto. Richiamatemi Alberto, dai, garantisco per lui, dai. Anna Maria, provincia di Roma, dai. Anna Maria. No, che stufato, qui siamo ancora all'inizio, prestissimo, Me ne vado. Io sento un caldo con questa cosa da carcerato, sento un caldo. Ma me ne vado, pure che arrivi la polizia, me ne vado. Anna Maria, me ne vado, dai. Anna Maria, dai. Pronto? Dimmi cara, dimmi. Buonasera, dai, dimmi. Cruciani, è un piacere parlare con lei, non mi tratti male. No, allora, dipende. Io chiamo da Bellegra, sì, ti chiami come mia madre. Oh, un bellissimo nome, penso, no? Anna Maria, allora. Mia madre si chiama Anna Maria. L'altro giorno Parenzo ha visto mia madre, anzi no, ha incontrato un tassista. No. Io questo non lo racconto. Perché no, perché ha incontrato... Perché le cose familiari non ma non, ha incontrato non un tassista che poco prima aveva imbarcato mia madre, insieme a un signore di cui non conosco, cioè un signore... Vabbè, sarà fatti tua madre però. Ma non lo so, un signore, infatti sto indagando per capire chi è questo signore. Sto indagando per capire chi è questo signore che si accompagnava a mia madre. Cioè, vabbè, Anna Maria, vai, dimmi. Allora, guardi, io abito in campagna. Mi sono munita di allarme per stare tranquilla a una ragazza di 16 anni. Certo. Vivo con mio marito. Allora, noi dormiamo. Mi entrano dentro casa. Perché non mi devo difendere? Non si capisce. Non si capisce. Ma nessuno lo mette in dubbio. Lei poi difende il diritto di difendere. Parenzo, Parenzo dice che Parenzo dice quello che dice Parenzo. È giusto, è giusto che i magistrati facciano le indagini. Ma è giusto, questo è giusto. Esiste già la legge sulla legittima difesa. Certo, esiste. Certo. Ma ci vorrebbe un referendum. Ma che referendum? Esiste già una legge. Basta quel referendum. Non ne posso più. Perché un uomo che ha sparato, lui stava a casa sua a dormire, dormiva in pace, tranquillo. Non è normale ma che entrano dentro casa. Ma esiste non è già normale. La legge sulla legittima difesa. Posso informarvi di questo? Non farsi nemmeno il processo a articolo questo signore. 52 codice penale. Esiste già la legittima difesa. Sì, però Anna Maria si preoccupa del fatto che questo signore che ha difeso le sue proprietà possa essere processato, possa non essere comunque processato. Ma che ne sai, c'è gente che ha fatto magari verrà rinviato a giudizio, un sacco ma di non casi lo sappiamo di persone assolte ma giustamente. Dopo anni, o manco rinviati a giudizio. Rovinati, ho capito, rovinati, ma se muore rovinati, una persona, rovinati, ma rovinati, ma siete impazziti, certo. Ma molti casi si concludono prima della chiusura. Aveva anche l'allarme dentro casa. Ma va bene, ma infatti quel signore avrà agito. Allora Alberto, ciao Anna Maria, Alberto ci sei o no? Sì, sono qua. Allora dimmi. Prendo accordi con una signora prostituta che viene in motel, arriva col suo Mercedes, penso che magari è sfruttata, io non lo so. Allora non dovrei neanche andare, vado in Calabria 2 mesi all'anno e si legge che pagano tutti il pizzo o quasi tutti, così come quasi tutte le prostitute sono schiave della RAI, e così non dovrei mangiare neanche i pomodori che vengono dal sud, perché nel ghetto di Rignano sono gli schiavi e a Rosarno ci sono gli schiavi. L'altro giorno alla catena di montaggio della, mi sembra della Fiat, uno si è fatto la pipì addosso, sono schiavi tutti. Volevo sapere se sbaglio tanto a pensarla così grossolanamente. No, ma non ho capito, tu affitti questa prostituta 400 euro per andare con tua moglie, fate sesso in tre in pratica o no? O fanno io sesso lo loro? Faccio solo con mia moglie per accordi nostri, però mi piace vedere lei, mi piace vedere loro in un motel qui. Ti piace vedere loro che lesbicano così alla grande? Mi piace diciamo. Vedere loro, sì, questo. E poi dopo io faccio con mia moglie per accordi che abbiamo. E tua moglie è praticamente bisex in sostanza? Sì, sì, sì, sì. È sostanzialmente bisex. Ma tu affitti sempre la stessa oppure cambi? Negli ultimi anni quasi sempre la stessa. Quasi sempre colore, la stessa. Per cui non sono neanche la stessa. Come mai? Abbiamo un amico in comune che potrebbe confermarlo, ma non facciamo nomi. Ma com'è che non ho capito com'è che la preferisci di colore? Intanto è stato indagato il ristoratore, è stato indagato il ristoratore, ufficialmente indagato il ristoratore. È un atto dovuto. Indagato il ristoratore. Indagato il ristoratore. Ma spiega che è un atto dovuto da parte della magistratura. Oggi vabbè, ci sono tanti indagati. Vai, Alberto, vai, dai. Uno in più, uno in meno, chi se ne frega. Ci è piaciuta a entrambi, un bel modo di fare, e ci è piaciuto. Indagato il ristoratore. Cos'è sto rumore qua? Stanno venendo qui adesso. Cos'è sto rumore di polizia? Vabbè, Alberto, allora non ho capito. Io sono in un giardino ed è passata la polizia, non è oggi. Sa qua, io qua sa com'è, tre figli. Comunque, già due mogli, tengo famiglia, insomma, la situazione. Sì, scusi Alberto, io non capisco una cosa. Questa dunque è praticamente black and white la sostanza delle cose, cioè sì, lei sì, è sì. Bianca, volevo nera. Sapere, dato che tu, ma sono che fanno insieme? Chiave? Che fanno insieme sua moglie e la nera, diciamo la black? Beh, adesso quello che possono fare due donne non avendo, sì, immagino, ma non anche avendo il pene, fanno quello che possono fare due donne. Utilizzate anche strumenti? No, utilizzate no. Molto probabilmente mia moglie vorrebbe un maschio, ma io non ho coraggio di avere concorrenti. Mi fa un po' impressione l'idea di vedere un uomo davanti a me. Sono vigliacco io, molto probabilmente. È vigliacco, sì, lei è un gran vigliacco. Anche lei è un gran vigliacco. Io sono un gran vigliacco. Lei è un grandissimo, sì, vigliacco. Ce l'ha è un vigliacco schifoso, perché dovrebbe fare scopare sua moglie. Adesso chiamo il mio avvocato e vi denuncio tutti in diretta. No, ma l'ha detto lei. Ha detto lei che è un vigliacco. No, io scherzo, non sono mica come Parenzo. Anch'io, purtroppo, alla fine del querele ne faccio troppo. No, poco. Ma io la stimo molto. Solo che mi sembra che dare addosso a tutti questi che vanno con le prostitute, tutti con racket. Ma il racket c'è da tutte le parti, anche nei negozi c'è il racket. E allora cosa dovremmo chiedere a tutti? Il certificato anti-racket. Vabbè, Alberto, se vuoi ti richiamo più tardi. Serata, arrivederci. Ciao. Complimenti all'avvocato Trucco. Ciao. take you to a gay bar. E da poco passata la mezzanotte, la luna piena è alta nel cielo, indosso la mia tuta nera e la maschera da lupo, prendo la mia fat bike e la caccia comincia, quando gli zingari sentiranno l'ululato si cagheranno sotto, perché sapranno che il cacciatore è arrivato. Allora, caro David, con noi ha scatenato un sacco di polemiche nei giorni scorsi, proprio nel giorno in cui, come abbiamo detto, un ristoratore ha ucciso un ladro, abbiamo Francesco Facchinetti. Sì, ciao! Un saluto molto, ma devo, ho un problema con la macchina, che sono sceso giù, che me la stanno... No, ma hanno avvisato che mi stavano portando via, che devo, era la macchina in divieto di sosta. Faccio, no, vi seguo al telefono. Beh, ma chi se ne frega? Divieto di sosta, la macchina in divieto di sosta. Ho capito, ma se queste teste di cazzo mi hanno detto che mi mettono la multa, sono sceso un attimo, perché altrimenti la paghi tu o Napoletano 150 euro di multa? No, la Napoletano no, Napoletano no, meglio di no. E chi la paga? Però non ho capito, tu sei andato via dallo studio e sei andato sotto a spostare la macchina. Ma sei con... anche... Senti, sono anche suonando, se vuoi. Ma roba incredibile. Ciao Francesco, come stai? Ciao, ciao compagno Giuseppe, come stai? Tutto a posto? Compagno Facchinetti, non c'è male. Che stai, in viva voce per caso, no? Non sono in viva voce, ho il telefono attaccato all'orecchia. Bene, senti, allora, Davide, la sai la polemica che ha scatenato Facchinetti nei giorni scorsi? Allora... No, e come? Certo, vuole comprarci un arsenale d'armi, mi ha detto. Sì, dice che si è rotti i coglioni perché hanno, no, hanno, fatto hanno fatto irruzione a casa del padre, dove c'erano anche delle persone piccole, dei piccoli, dei bambini, sì. E poi ha detto, sto andando a comprarmi un arsenale, se qualcuno entra in casa mia con i miei figli non esce vivo. Poi allora, successivamente ha detto che non vuole la difesa, cioè non vuole il Far West, ma vuole la legittima difesa, giusto Facchinè? Sì, sì, la questione è molto semplice. Sono un padre di quattro figli, in casa mia devo essere sicuro e tranquillo di poter proteggere i miei figli. Siccome purtroppo, e dico purtroppo, è capitato più di una volta che i ladri entrassero in casa mia, ma non solo di notte, anche di giorno, la domenica mattina alle 11, sì. Dopo un po' uno ovviamente gli girano le palle e cerca di esprimere il proprio... Ma sono già entrati a casa tua? Diverse volte, purtroppo diverse volte. Ma con te dentro oppure... Anche con me dentro. Una volta, tra l'altro, sono stati anche molto gentili perché presentavo X Factor, mi hanno lasciato su Rai 2, sì. Mi hanno svaligiato la casa e se ne sono andati. Anche simpatici. Però fin quando ero da solo non me ne fregava niente, sinceramente. Il problema non è la mia vita, il problema è la vita dei miei figli, di cui una ha un anno, uno l'altro certo. Due anni, cinque anni. No, ma certo, anni. Ma io sai come la penso su questo argomento. Quando tu dici sto andando a comprarmi un arsenale, poi l'hai fatto per davvero no? No, io vengo da una famiglia di appassionati di armi, per cui mio nonno sparava al poligono, è stato un tiratore scelto, per cui anche io ho il porto d'armi, non a difesa personale, ho il porto d'armi per sparare al poligono sportivo, porto d'armi sportivo, diciamo. Sì, sì, diciamo la differenza è ogni cittadino ha il diritto di poter avere il porto d'armi ad uso sportivo, invece quello che è a difesa personale è una professione che la prefettura ti fa. Che ma lo vuoi prendere adesso il porto d'armi? No, non vuoi andare a fare Chuck Norris in giro per le città. Cioè, no, ma no. Ce l'hai un'arma in casa o no per difenderti? Sono pieno di armi in casa. Sono pieno di e armi. Che armi hai? Ho di tutto, di più, ho anche un Kalashnikov, ne ho parecchie di armi. Addirittura? Il Kalashnikov si può detenere, ovviamente è a colpo singolo, quindi non a raffica, perché a raffica non si possono tenere armi militari a raffica in Italia, però il Kalashnikov a colpo singolo, la legge ti permette di tenerlo in casa, per cui ce l'ho in casa, in cassaforte, esattamente come la legge ti dice di tenerlo. Per cui quando dici, quando è scritto sto andando a comprarmi un arsenale, in realtà l'arsenale già ce l'hai? Già ce l'avevo. Ma quante armi hai in tutto? Tre armi a canna lunga, per cui chiamiamoli fucili, e ho quattro pistole. Sì. E il Kalashnikov fa parte di quelle tre armi a canna lunga? A canna lunga, vado a sparare al poligono, mi piace, mi diverto, è una roba che faccio due o tre volte al mese, mi rilassa. Ma tu ti senti più sicuro con queste pistole dentro casa, Francesco? Io da quando ho i miei figli, sicuramente sì, assolutissimamente sì. Assolutissimamente sì. Quando sento un rumore in casa mia, e succede abitando in mezzo al nulla, abito in una zona di campagna dove ci sono boschi, sono tre ettari di boschi. Diamo anche l'indirizzo, così. No. Quando sento dei rumori, io la prima cosa che faccio, scendo giù, apro la mia cassaforte, cerco di armarmi e vado a vedere che cosa è successo. Certo non vado in giro a vedere cosa è successo senza niente, cioè vado in giro per il prato. No, certo, certo. Senti una cosa, ma se qualcuno entrasse dentro casa malintenzionato, tu spari sicuro? Se uno entra in casa mia malintenzionato, ergo c'è pericolo di vita per i miei figli, lo faccio, io l'ho scritto, è quello che sostengo. Preferisco passare dei guai io, piuttosto di pensare al pericolo di vedere un mio figlio con un graffio sulla guancia fatto da un malvivente. Ma questo tranquillo, sicuro, cioè lo so. No, ma questo qua guarda, bene, ma questo è anche umano, non sì. So come dire, ma la no. Legge già tutela la possibilità di secondo me no, adesso la cosa voglio sapere da te, c'è bisogno di cambiare questa legge sulla legittima difesa per dare meno allora, responsabilità a chi spara o no? Posso dirti una cosa? C'è bisogno di cambiare il metodo con cui le armi vengono date per uso sportivo, perché di fatto non c'è nessun tipo di controllo, cioè è un diritto, quindi ti fanno un esame anamnestico, che è un esame vale niente, perché ti dico sei pazzo? No, non sono matto, poi vado, e in verità magari lo sei, poi vado al poligono, sparo 40 colpi in mezzo all'obiettivo a 3 metri e ti danno l'arma. Per cui questo magari bisogna... Cioè è troppo facile secondo te avere l'arma a uso sportivo? È molto facile, è molto facile. Invece quelli che vengono indagati, secondo te, quando sparano un ladro e lo ammazzano, è una follia o no? Bisogna capire la dinamica, ovviamente, bisogna capire la dinamica, ma ti ripeto, se a Francesco Fattinetti entra un ladro in casa e ha intenzioni proprio... Vabbè, ma se entra dentro casa non è che ha intenzioni pacifiche, diciamo. Ovviamente, io non ci penso un secondo. Cioè, immagino il gioielliere o il ristoratore o un esercente che viene vessato tre volte all'anno, rapinato, che non ce la fa più, ma porca vacca, ma ci mancherebbe altro, cioè devi difendere un attimo il suo lavoro o deve essere derubato continuamente. Ma va cambiata altro. La legittima difesa o no? Così com'è sì. Se io sono in casa e entra uno con un coltello in mano e io gli sparo, vado in galera. Questo deve essere cambiato, secondo te? Questa è la realtà dei fatti, è ovvio. Senti, l'ultima cosa, ma dopo che hai detto quella cosa hanno protetto pure casa tua, no? No, non hanno protetto casa mia, il mio sindaco ha detto che non era propriamente d'accordo con me. Ciao Franci, ciao, grande! Ciao. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top! Ma va suca! La Zanzara. Parenzo, Caravaggio andava a puttane, Toulouse-Lautrec andava a puttane, Bukowski andava a puttane, George Washington andava a puttane, sono tutti miserabili, tutti miserabili, ma vaffanculo Parenzo. Mamma mia, chiama l'avvocato in diretta, Parenzo, mamma mia, chiama il paparino, Parenzo. Ah, tesoro mio, questa sera sei stata davvero stupenda, abbiamo fatto l'amore in maniera fantastica. Come? Me ne devo andare, eh? Cazzo, così subito, di colpo. Ah, tuo marito smette di lavorare alle 6:50 e torna a casa veloce? Porca miseria. Ma che lavoro fa tuo marito? Ah, è un nano che parla alla radio? Ho capito. Va bene, dai tesoro mio, ci vedremo poi domani, quando quel nano di tuo marito farà la prossima puntata. Ciao amore, sei stata fantastica. Beh, è arrivata un'intercettazione, Parenzo, non so cosa è successo. arrivata alle ore 20:19:58 è stato commesso un altro reato. Ma che reato è stato commesso in questo caso? Un avvocato cos'è? Trucco ma, questa volta. Ma cosa è successo? Chiamiamo in diretta, vediamo se risponde. Ma che reato, scusami? Perché è reato di una diffamazione pesantissima, peraltro. Cioè, e quindi, divulgazione, sì, che cosa? No, intanto sono divulgazione di che cosa? Di una telefonata privata? Che sì, cosa? Sì, sì, no, ma che c'entra? Scusa, avvocato, no, questa cosa è gravissima. 19:58 alla radio hanno passato 20:01 un messaggio privato di un pseudo ascoltatore che dice che sarebbe a casa mia a fare i suoi comodi mentre io sono qui alla radio. Qui possiamo procedere, però. No, vabbè, però. Però bisogna prima ascoltarlo un attimo. Ma che vuoi ascoltare? L'ha già mandato in onda quello lì. Come va Natania in questo? Ma interveniamo immediatamente. Ma dai, ma questo io lo cambio avvocato, ragazzi. Avvocato è una cosa incredibile. Io non so mai se è giusto fare gli auguri di compleanno oppure no. Hai un anno di più. Sei un anno più vecchio, sei un anno più vicino alla fine. Eppure siamo come dei cretini. Regali, buon compleanno, felicitazioni. Ma che siamo noi? Dei pezzi di merda. Era il signor Richard Benson che oggi, caro David, sì, compie 62 anni. E se ci risponde al telefono, perché ogni volta è un disastro. Cioè pesci come segno zodiacale. Che ne so, sì, penso di sì, non me ne intendo di queste cose. Tra qualche minuto, mio figlio, cari ascoltatori, ma dicono tuo figlio ogni volta che sale in macchina, tuo figlio vuole sentire i nani, no, è vero? Mia figlia grande vuole ascoltare i nani. Mio figlio piccolo, quello che ha un anno, è del segno dei pesci. Quindi un po' mi diciamo che vabbè, c'è tanta gente del segno dei pesci. No, capito, ma se uno comunque, dice fra qualche minuto, se ci risponde, se ci risponde, vediamo di fargli gli auguri. Intanto, ieri a Piazza Pulita c'era un signore, un convertito che si dirty chiama Dirty Square, dillo in inglese che è anche più bello. No, dirty non è square. Dirty, al contrario, che è Dirty. Scusi, clean Square. Che Dirty è sporco. Muhammad, il signor Muhammad, un convertito clean. Italiano. Clean tale credo square. Alfredo Muhammad, cioè Alfredo che poi adesso vabbè. Si chiama Muhammad. Io dico come cazzo si fa a essere convertiti, ragazzi? Convertiti, ma dai, su. Comunque ha detto delle cose incredibili, dovrebbero arrestarlo subito o comunque fare intervenire i carabinieri. Va bene, meglio non chiamare Trucco, no, perché ma senti, pare che oggi no, basta col Trucco, dai, ma anche male. Non ci sarà altra religione se non l'Islam nella penisola arabica. Di qui giustifico il fatto che molti imam e molti governi spingono per la distruzione delle chiese in terra d'Islam. Cioè bisogna distruggere le chiese in terra islamica. Ma è un pazzo questo. No, ma sei italiano pazzo. Convertito, un tale Alfredo no, Muhammad. È semplicemente un pazzo, dai. Ma non è un pazzo, è islamico. Perché è pazzo? È islamico. È islam, si è convertito all'Islam. Io direi che cosa è un pazzesca. Pazzo, poteva ma adesso lascia se è convertito all'Islam, vabbè, d'accordo. Non si è convertito al buddismo, non si è convertito al cristianesimo, non si è convertito al puritarianesimo, non si è convertito al pastafarianesimo, dai. Adesso al di là di quel che ha fatto. D'accordo, è un pazzo islamico. Un pazzo islamico. Ma senti quest'altra roba. Senti, vabbè, allora, non è islamico, va bene. Vogliamo negare che è islamico. Ma non certo che è islamico, ma non è quello il dettaglio importante. Ah no, e che cos'è allora? No, che è pazzo, che è pazzo. Se l'uomo chiede a sua moglie di avere un rapporto sessuale, la moglie deve esaudire la richiesta dell'uomo anche se si trova in un forno cocente. Ma tu capisci, bisogna soddisfare il bisogno sessuale dell'uomo. No, ma è totalmente la moglie spostato. Infibulata e le figlie lo saranno. O è ci sta raccontando spostato. Qualche cazzata, oppure bisogna intervenire immediatamente. Gli amici di Piazza Pulita, come al solito, hanno fatto un grande lavoro scovando questo signore. Intervengano le forze dell'ordine. Tua moglie è infibulata? Sì. Le tue figlie lo farai anche a loro? Ma sicuramente. Grande pezzo di Sara Giudice, eh? Allora, questo. Il resto dopo, dai. Alberto dalla provincia di Torino. Dai, Alberto dalla provincia di Torino, vai. Alberto. Buonasera sfigati. Dimmi, sfigati un cazzo. Comunque va bene, dai. Ci vediamo pure sfigati, dai. Sì, è roba da poco, sfigati è roba da poco, sì è vero. No, no, ma sfigati perché tra un po' magari state a casa, poi se volete vi do una mano io a entrare in pubblica amministrazione. Ma in che senso, scusa? A parte che non staremo affatto a casa, tu dici per il solo 24 ore che stiamo a casa. Dai. Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero, ma non lo so, affrontiamo tutto. Vedi, io sono pronto qui, sono pronto anche al peggio. Oggi mi sono preparato al peggio, così mi sono vestito da carcerato. Se vengono, siamo qui, amici miei. Siamo qui pronti, vi anticipo tutto, manetto e tutto. Dai. Va tutto meravigliosamente. Alberto, dai, ma noi che in fondo a noi, non, a me, io vi assicuro, ti assicuro, Alberto, a me non me ne frega un cazzo. Se non me ne frega nulla, nulla. Mi dispiace per tante persone che sono coinvolte in questa vicenda. Vabbè, certo. Alberto, dai. Vabbè, certamente, senti, di cosa parliamo? Cambiamo argomento. Hai telefonato tu, che ne sappiamo? Tu sei un dipendente, sei un dipendente pubblico? Sì. Quanto lavori? Quanto lavori? Allora, aspetta, questa è già una parola grossa. Cioè, non lavori in pratica? No, allora, io timbro, perché a differenza di altri che sono proprio di deficit, non vanno neanche a timbrare. Io timbro. Tu timbri, poi? Vabbè. E poi quello è il mio compito. Cioè, bisogna essere, cioè io non dico niente, però i miei colleghi che neanche, cioè, allora, neanche sulla vicenda di Salvini c'è un aggiornamento, perché Minniti ha detto che deve essere garantito il diritto di manifestare. Oh, vedi, certo, Minniti bravissimo, mi ha detto che deve essere assicurato il diritto costituzionalmente garantito dall'onorevole Salvini a tenere la manifestazione programmata domani nel capoluogo campano. Minniti, persona molto seria, ha dato disposizione al prefetto di Napoli, che pare che fino adesso non abbia fatto questo lavoro così eccezionale, perché si è assicurato il diritto costituzionalmente garantito a manifestare. Così ha detto Minniti, che è un grande ministro degli interni, almeno per quello che ha detto in questa occasione, e che ha garantito quello che dovrebbe essere una cosa normale. Vabbè, comunque, Alberto, dimmi. Niente, vabbè, sono ma tu come sei entrato nella pubblica amministrazione? Vabbè, tramite lo sponsor. Cioè, tu sei un dipendente pubblico raccomandato. Dove lavori esattamente? Assolutamente. Ehi, Ciccio, non è che ti dico tutte le non cose. Si può dire. Bene, dunque, tu sei, io sono raccomandato, e come passi la giornata? Sì. La devo passare in allora io faccio il mio dovere, che è quello di di beggiare, di timbrare, e poi insomma, noi siamo lì, siamo burocrati, quindi noi viviamo nella burocrazia, cioè tu beggi e poi non fai un cazzo, diciamo, lavori molto poco, tengo compagnia ad altri miei colleghi che sono seduti vicino a me. No, spiegami bene, cioè, come è vero? Cioè, non lo so se è vero adesso, ragazzi. Sarà vero, perché se non vuole dire come si chiamano, dove lavora, eccetera, sarà vero. Altrimenti, se mentisse, allora, direbbe ragazzi, lavoro a Pinco Palle, e poi non allora, è vero. Domanda, che sei una persona intelligente. Domanda: secondo voi, perché nessuno dei miei colleghi si è mai azzardato a parlare a chi che sia di quello che fa? Domanda. Sì, non lo so, dimmi. È perché non c'è niente da dire, cioè, l'Italia va avanti grazie alla burocrazia, i politici non comandano, comandano i burocrati. Vabbè, ma ho capito, Alberto, io voglio capire una cosa, quanto lavori? Questo è il punto, diciamo la verità, tu l'orario normale lo fai, però poi effettivamente in questo orario normale quanto lavori? Lavoro di ingegno, di intelligenza, di pratica. No, ma effettivamente quante ore sulle sette, quelle che bisogna fare, adesso non mi ricordo. È un lavoro di concetto, cioè tu devi dalla nostra parte. No, voglio capire dire, se perdi tempo dentro quel posto. Ma diciamo che ci sono le pause. Normali, cioè se uno lavora di concetto ha anche il diritto. Vabbè, non fai un cazzo, diciamo. Posso dire non fai un cazzo? Posso dire non fai un cazzo? Vabbè, diciamo così. Diciamo che io assolvo i miei compiti secondo le funzioni che mi hanno dato. Vabbè, niente questo, Alberto. Hai detto, sono entrato raccomandato alla pubblica amministrazione. Cioè, è un lavoro comodo, mi sembra. Un lavoro comodo, tranquillo. Assolutamente sì. Tempo libero tantissimo. Ma senti, ma tu sai che, ad esempio, un segretario capo guadagna più del presidente degli Stati Uniti? Sì, ma lo so benissimo che la pubblica amministrazione ha degli stipendi folli. Allora che vuoi dire con questo? Guadagna un dollaro. Ma che vuoi dire con questo? E voglio solo dirti che l'Italia non cambierà mai. Perché ci saranno quelli che lavorano dalla mattina alla sera, che voteranno per quello che è giusto votare. E poi ci siamo noi dall'altra parte che ci facciamo forza. Ma guarda, Alberto, la mia idea è che bisogna, io sono dell'idea di Luttuak, che bisogna cacciare 200-300 mila dipendenti pubblici per salvare l'Italia. Ma no, ma adesso questo mi pare una follia. Cacciare, in modo progressivo, con una certa tranquillità. Non può essere. Questo, per un semplice motivo, c'è riforma devo andare da Mario, Mario, provincia di Monza, vai. Oh, buonasera Parenzo. Vai, dimmi, Cruciani, buonasera. Dimmi. Proprio oggi ero a Casaletto Lodigiano, che c'erano lì tutte le TV e tutta quella roba. Chi se ne frega, però, si può dire. Lì, io ma no, dove è successo il ma fatto del ristoratore? Testimoniale, lo so perfettamente. Sparato, quindi? No. Allora, quel signor lì che ha 68 anni, io lo conosco molto bene perché ogni tanto mi fermo in quella trattoria lì. Si chiama come lei, no, Mario? No, non so se si chiama come me. Comunque, dici che lo conosci bene, ma cos'è il nome? No, ci parlo anche assieme, non gli ho mai chiesto il nome. No, una persona molto seria che lavora lui, suo figlio e la nuora. Sì. E hanno pure un bambino e abitano lì sopra, sì, dalla trattoria. Sì. Quello lì che è venuto giù, che si è trovato i ladri in casa e ha sparato, sì, per me ha fatto benissimo. Ha fatto. Bravo Mario, alle bravo. 3 di notte non si va a scassinare e per andare dentro a rubare... quel poco che guadagno per questo, che questa che è la vera poco. Maggioranza silenziosa, capito? Caro Parenzo, no, mentre sento le manette, perché le manette, in manette devono finire gli altri ma ladri che erano con quell'altro. Ma nessuno mette in discussione, ma quello che dice sto in casa alle 3 di notte, ma cosa ragazzi, dice? Ma chi è che va in casa? Ma, ma sta dicendo una cosa talmente banale da essere stupida, perché in Italia vi informo ti ha dato dello stupido, Mario. Ho detto no, no, no, non me ne ho detto che ho detto una cosa che è bravo e fa bene, troppo sì, poco da lunedì al venerdì. Anche lui, ma ecco, fa sempre la sua parte, no? No, scusa, signori la sua miei, alle 3 di notte non si va in casa di nessuno. Ma è ovvio! Mamma, sto salame. E se non si bussa, ma si questo è un salame. Ma perché dice, porta. Ma perché deve dire una cosa così perché banale? Giusto. Perché giusto? Sì, esiste perché in Italia una cosa. In Italia noi tra 10 anni schiavi degli altri. Esiste in Italia una cosa che si chiama legge sulla legittima difesa. Ma quella legittima difesa esiste già. Siete un branco di sale. Basta, chiamo Trucco. Chiamo l'avvocato. Chiamo l'avvocato. Fermi lì. Sparo in bocca se posso. Bravo, bravo. In bocca, anche sulle palle. In bocca gli sparo. Come dei coglioni gli sparo. Bravo. Per usare un termine che usate molto. No, voi. Ma è sui coglioni, sui coglioni. 24, anche la professoressa De Blanc, no, ieri sera, la contessa De Blanc, sì, voleva sparare sui coglioni. Contessa, eh? Me ne frego della contessa. La contessa De Blanc. Ma non si può alle 3 di notte ha un bambino in casa, la nuora, il figlio, che lavorano tutto il giorno. Ma avete provato a trovarvi in casa uno alle 3 di notte davanti al letto, ragazzi? Lo so. Provateci e poi no, vedrete. Ma io non ci voglio provare, chi in se ne frega? Casa, un privato non deve andare nessuno, sennò uno deve bussare 10 volte se uno è onesto. Scusi, sono Cruciani, sono Parenzo. Dalla voce si sente, allora posso anche aprire. Ma non fa una grinza? Ma no, che minchia io gli devo aprire a uno che non so chi è. Ma per l'amor del cielo, ha fatto benone sparare. Ti dirò un'altra cosa, lì dimmi, vicino, sì, a due passi, sì, e hai sempre sì, i talebani lì, chiamiamoli così, per non si sa chi sono. Beh, ma sono a parte che albanesi, non si sa chi è andato a rubare lì. No, sta attento, 800 metri che portano 3 fili della corrente, sì, l'altra notte si alza il mungitore a mungere la vacca e dice non c'è la corrente, non c'è, allora... porca miseria, le vacche vanno munte, no? Vanno a vedere, hanno portato via 800 metri di filo di rame. Quelli sono i rom, quelli no? Sono i signori rom. E tieni presente spesso, che quelli poi li paghiamo noi quando paghiamo la luce, perché se l'Enel o l'ente quello che è ha queste grosse spese, o pagando l'assicurazione per poi essere risarcito, ma si può. 800 metri di fili hanno portato via. No, di rame. No, capito Mario. Se li mettono di alluminio, perché di alluminio non li rubano più, perché dicono che vabbè, no, no. Ciao tesoro. Comunque, ciao. Sì, grazie, ciao, buonasera, ciao, state bene tutti. Ciao. Arrivederci. Quando è che chiudete, cornuti? Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. La zanzara. Cruccio, la mia ragazza tedesca si lamenta sempre di te e quando entro in camera che mi ascolto la zanzara timida e dice che il suono generale della zanzara è rah, rah, rah, rah, rah. Sono stato in piscina adesso in pausa pranzo e in spogliatoio vicino a me c'erano i vestiti di un ragazzo che era appena entrato e c'erano le mutande ben in vista e avevano lo striscio. Ho detto cazzo, c'è Cruciani in piscina. Mi sono rivestito e sono andato a casa. Ragazzi, ore 13 torno a casa, compito di filosofia, ok, compito di latino, ok, compito a sorpresa di matematica, ok, stanco morto, arrivo a casa, parte la zanzara, oh. Siamo al top ragazzi, siamo al top. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta La Zanzara. Allora c'è Salim dalla provincia di Genova, vai Salim, vai. Ciao, buonasera. Salim. Partendo dal presupposto che siete due geni assoluti della radio. Ma Salim, tu sei tunisino? Limitativo, no, genio. Che sei? Ho un nome arabo, ma sono genovese. Ma com'è che c'è un nome arabo? Vabbè, scusa, perché che c'è? Che so, tuo padre è arabo, tuo padre è tunisino, tuo padre è yemenita, è dello Yemen. Tuo padre è yemenita, ha sposato una genovese, immagino. No, no, vabbè, è una storia molto lunga. Vabbè, comunque. E del quale non ho piacere a parlarne. Comunque, vabbè, no. Vabbè, Salim, tu non sei muslim, non essere muslim. No. Vabbè, perché non essere solo perché uno si chiama Salim. Comunione, cresimato, ma vabbè, diciamo, ma non è importante, frequento poco, frequento dimmi. Poco. No, no, per carità, non fatino. Volevo dire una cosa, Facchinetti, sì. Dopo aver sentito quello che ha detto Facchinetti... Incredibile, ha detto che ha un Kalashnikov a casa per uso sportivo con un solo colpo in canna, Kalash, un vero e proprio arsenale, altro che vado a comprare un arsenale, già ce l'ha l'arsenale. Ce l'ha, infatti ce l'ha l'arsenale. Volevo dire una cosa, sono d'accordo con Parenzo. Io, se fossi il prefetto, andrei a casa, se fossi cosa, andrei a casa e prenderei tutti i fucili e tutte le pistole. Perché? Spiego. Ma come fucile? Quello ce l'ha legittimamente per uso sportivo, gli vuoi togliere i fucili e le pistole che c'ha in casa, scusa, signor Facchinetti. Beh, già parte uno dal presupposto, poi un personaggio pubblico, ma non importa, poteva essere qualsiasi persona. Allora? Devo dichiarare che se entra qualcuno in casa e lui spara. Eh beh, ma è normale, che devi fare, scusa? Anni fa, no, lasciamo stare Stacchio il benzinaio. Scusa, per te è sbagliato sparare? Non so com'è. È sbagliato, tu puoi anche essere contro, ma perché devi privare di questo diritto gli altri? Tu puoi anche essere contro l'uso delle armi. Certamente. Ma perché devi privare gli altri di questo diritto? Perché è pericoloso? Ammazzare una persona non è mai divertente, giustamente. E dunque quel tizio là di Lodi che ha sparato alle spalle, secondo quello che sono le prime ricostruzioni, va condannato secondo te? Bisogna vedere, ha sparato alle spalle, questo non lo sappiamo. Se avesse sparato alle spalle. Anni fa era successo, un signore si è affacciato dal secondo piano di casa sua, c'era un ladro che stava scappando. Sì, sì. Stava scappando e gli ha sparato nella testa, da dietro. E allora? Ora voglio capire, quella non è legittima difesa. Uno sta scappando. Ma dipende dalla situazione, dipende dalla situazione. Il pericolo. Era in giardino questo, voglio sapere il pericolo. Ma non lo so, ma dipende. Ma se sei in giardino, quello può tornare indietro, può sparare a tua figlia, anche se è in giardino e minaccia la tua proprietà. Non lo sai quello che sta facendo. Magari non è che sta, non è che dice dal giardino: scusa, aspetta, sto scappando, non mi sparare. No, è lì che si aggira. Ma uno scusa. Non è così freddo da decidere se quello sta scappando o sta andando a prendere un bazooka dentro la macchina che è fuori. Ma come ragionate, ragazzi? Ma se io, infatti, se torna, vedo armato, gli sparo. E lì in quel momento devi aspettare. Io non aspetto un cazzo. No, se uno sta dentro casa mia, io sparo. Io non, perché non mi va. Ognuno ha quei appunto. Intanto aspetta, comincia... che forse ci risponde Richard. Aspetta, Salim. Aspetta. Richard chi? Aspetta. È il compleanno di Richard Benson, ragazzi. 62 certo. anni. Vai, chiamiamo. Vai. Forse si è liberato. Pronto? Esther? Ciao Giuseppe. Come stai? Ciao, come stai, cara? Bene, grazie, molto bene. Bene, mi passi Richard, 62 anni, grandissimo. 62 anni oggi. Beh, devi aspettare un momento, sai perché? Perché? Che ha fatto? Perché Richard in questo momento è in toilette. Ah, ok. Ma la fai gli auguri del compleanno? Sì, ma come, sta al cesso? Sì, sta al cesso. Vabbè. Oh, che devo fare? Ma quando starà? 5 minuti? Quando deve stare, scusa? È arrivato, mi sembra. Ho sentito la voce. Te lo passo. Ciao, grazie. Ciao, ragazzi. Ciao, cara. Ciao, Esther. Sono Richard Benson. Ciao Richard. Maestro, grande. Auguri. Auguri. Grazie. Buon anno. 62 sono, Beh, ragazzi. Sì. Te li senti? Te li senti o no? No. Beh, no. Insomma, cioè, mi sento ancora un diciottenne. Beh, certo. Un diciottenne non esageriamo. Bravo, no, se è così, è forte. Diciamo un quarto. Sono calato 85 kg. Sei arrivato a 85? No, sono calato. Peso 62 kg. Ma veramente, che pesavi? 140 kg prima? Sì. Mortaccio. Bravo. Ma come hai fatto? Non lo so che è successo. Beh, non è che stai male, no? No, no. No, meno male. Cioè, ma con le medicine come va? Tutto a posto? Cioè c'è sempre... Sì, prendo solo poche medicine adesso. No, meno male, meno male. Bene. Quando inizia il tour? Il tour adesso ho un progetto molto importante con uno dei migliori batteristi del mondo. Come si chiama? Ovvero John Macaluso. Ah, il mitico John Macaluso. Io conoscevo Emanuele Macaluso del PC, però non credo sia lo stesso. No. È un altro, sì. Okay, John Macaluso. Poi, va bene. Un bassista mostruoso e io alla voce e alla chitarra. Beh, non c'è, l'importante è che tu stai bene fisicamente. Ecco, questa notizia è importante. Sei passato, hai perso 85 kg e sei arrivato praticamente a 62. Sei secchissimo praticamente. Sono immortale. Mamma mia. Sì, tutti gli incidenti che ho avuto in vita mia. Cioè, tu ti consideri immortale? Sì. Un po' come Satana. Immortale. Un po' come Satana, diciamo. Saranno mille anni che vivo su questa terra. Sì. Sono ancora giovane. I denti come vanno, i denti? I denti li ho rimessi tutti. Hai rimesso pure tutti i denti? Beh, sei pronto per guidare il Sole 24 Ore, il giornale. Conosci il Sole 24 Ore? Certo che lo conosco, seguo anche la radio. Ma potresti fare il direttore del Sole 24 Ore? Certo, sì. Certo. Cioè, saresti prontissimo, cioè, ma te ne intendi di finanza, di economia, ma di queste cose qua? Dai. Certo, so tutto di tutto. Beh. Come fare, perché sai che adesso qui c'è qualche movimento qui al Sole? Cosa? No, qui c'è qualche movimento, diciamo. Potresti essere uno dei candidati alla direzione del Sole 24 Ore? Magari. Magari. Vuoi che portiamo avanti questa tua questa possibilità? La portiamo avanti qui dalla Radio 24? Anche vice direttore, anche giornalista. Sì, anche vice direttore. No, però giornalista per vari anni. Sì, ma certo, ha fatto giornalista per vari anni. Che titolo faresti, ad esempio, adesso, rispetto alle cose che accadono in queste ore? In Italia è tutta domani una porcheria. Che titolo faresti? Come tutto apriresti uno domani il giornale, il Sole? Tutto uno... riferendomi al mio ultimo disco, L'Inferno dei Vivi, è proprio un inferno. Cioè, è un inferno, beh, così. Titolo, bellissimo titolo. Cioè, tu vedi, ad esempio, una bella natura, no? Sì. Tutta verde. Sì. Oppure vedi un bel mare. Ma non puoi capire cosa si nasconde sotto questa bella natura. Certo. Beh, sì, certo. Cioè, animali che si mangiano l'uno con l'altro, pesci enormi che si mangiano l'uno con l'altro. Sì. Capito? Per cui è un mondo fatto di violenza. Sì. Che però io vedo in un'altra maniera, perché io vivo libero. Sì, cioè, questo comunque è una... Io non faccio niente, non lavoro, non faccio niente, faccio solo il chitarrista. Avrò fatto in vita mia 5.000 concerti. Sì. Ricordati che i Pooh ne hanno fatti solo 3.000. Magari solo. I Pooh hanno fatto gli stadi, hanno fatto il teatro di tenda. Sì, però... Io ho 5.000 concerti attraverso il mondo. Ho fatto da spalla ai Kiss. Ho fatto da spalla ai nuovi Queen con Adam Lambert alla voce. Sì. Ho fatto da spalla ai nuovi Yes. Ho fatto da spalla ai Metallica. Sì, agli Iron Maiden. Sì. Sono stato produttore di vari dischi. Sono stato produttore di Lady Gaga. Cioè, tu praticamente di sei Alicia Keys, di tanti altri cantanti. Ho fatto il turnista su tantissimi dischi come chitarrista. Sì. Ecco, tutto questo però, ma uno dice, poi hai problemi col conto in banca. Com'è possibile stasera? Ti sei mangiato tutto? No, i soldi me li tengo a casa ormai. No, ma ho capito, fino a poco tempo fa avevi fatto un appello per fare una specie di colletta per aiutarti. Tu hai fatto tutte queste cose. No, poi è passato tutto. È passato tutto. E adesso quanti soldi c'hai in banca? In banca non c'ho niente, già te l'ho detto. Appunto, non c'è niente. Io mi rifiuto assolutamente di mettere i soldi in banca. Hai capito? Bravo. Come mai? No, io metto i soldi nelle buste. Ad esempio, concerto di Genova, sì. 2.000 euro. Sì. 2.000 euro in biglietti da 50 stanno in una busta. Sì. Concerto di Sestri Levante. Sì. Tutti i soldi stanno in un'altra busta. Una busta, però. Beh, giusto. Ma come fai a fare il direttore del Sole 24 Ore se non hai fiducia nelle banche? Scusami. Ma no, ma le banche non si può avere fiducia, giusto, Richard? Non si può avere fiducia nelle banche. Qualcuno mi ha clonato il bancomat. Ah, pure. Ho controllato tutti i bollettini. Io con mi... 900 euro di diritti si hai spariti nel nulla, tutti i soldi che mi ha riversato la Sony giapponese per fare il concerto nel grande stadio di Tokyo, dove sono finiti? E dove sono finiti? Te l'hanno rubati. Evidentemente qualcuno ha clonato il mio banco. Dunque in questo momento il conto in banca è zero, però tu comunque ti sei rimesso in piedi dal punto di vista economico. Certo. Vogliamo fare un attimo i nani, perché gli ascoltatori impazziscono per i nani. Sì, assolutamente. Ma senza chitarra non riesco a farlo. No, ma così un incipit. Ti mettiamo una base se vuoi. Cioè, un incipit. Partiamo un po' con i nani, ce l'abbiamo? Sì, ma è una stupidità, io mi rifiuto. No, ti ripasso adesso. No, aspetta un attimo. Non mi interessa. Ho un urlo mi per gli ascoltatori. Non mi interessa. Non mi interessa. Aspetta, Richard. Per la direzione del Sole 24 è il suo editoriale per dirigere il Sole 24 Ore. Questo. No, scusa, scusami, Esther, sì. Perché si rifiuta di fare i nani? Non lo so, perché non vuole farlo, si vede che gli gira così, oggi è il giorno del suo compleanno, certo. E quindi bisogna anche rispettare le sue volontà. No, per carità, no? Però un urlo per gli ascoltatori. Te l'ha appena fatto l'urlo. Ripassamelo, no? Un attimo, lo voglio salutare bene però, scusami, lo voglio salutare bene. No, non penso che voglia riparlare con te, guarda. Ma perché? Lo conosco troppo bene, non hai fatto niente di male, però Richard è fatto così, capito? È molto... molto focoso ed è molto... gli girano subito le palle. Ma gli girano subito i coglioni così? Sì, sì, anche con me fa così a casa, eh. Ma te mena pure ogni tanto? No, questo no. Meno male, questo no. Meno male, almeno questo. No. Ciao. Va Esther, bene. Ti abbraccio. Grazie, ciao, cara. Ciao. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Cruciani e Parenzo, siete due giornalisti fasulli e prezzolati per fare gli schiavetti del governo. Quanto vi pagano? Oggi ho preso un cliente che, come mi è entrato in macchina, mi ha detto: via Parenzo. Mi ha guardato e fa: scusi, perché ride? Perché è la via più bella del mondo, gli ho detto. Siamo al top. Ciao David, ti volevo dire che hai lasciato il libricino nero a casa mia. Torna presto a riprenderlo. Ciao amore. Una paura bestiale. Non mi interessa! Facciamo una trasmissione! Una trasmissione da urlo! Visti. Comunque, dimmi, è abbastanza sconcertante il signor Benson. Ma che vuol dire facciamo una trasmissione da urlo? Ma perché? Che cos'è? Allora ragazzi, molti sono stupiti perché noi abbiamo cercato e cercheremo di fare una colletta per i 3.300 euro di multa presi dalla signora Susanna, la prostituta di Roma. No, non faccio nessuna colletta. Io invece faccio una colletta tra gli ascoltatori per difendere il diritto di Susanna di vestirsi da mignotta. Cioè, se una è una mignotta e si mette un paio di collan leggermente, in cui si vede leggermente il culo scoperto, lei ha tutto il diritto di vestirsi da puttana. Tra l'altro non è che lo fa a Via del Corso, non è che lo fa a Via Frattina, è sulla Salaria. Beh, appunto, è sulla Salaria, non la vede nessuno, non la vedono i bambini, la signora come Susanna. No, le macchine che amica mia, Susanna, so che sei all'ascolto della Zanzara, ti difenderò, non pagare la multa, la pagheranno gli ascoltatori della Zanzara, già molti, anche imprenditori, hanno dato la loro disponibilità. Ma cosa dici? Assolutamente. Ma con tutte le cose che ci sono, ma c'è gente che preferisce dare i soldi alla Susanna piuttosto che al Sole 24 Ore. Ma figurati, ma per carità, ma non sia mai, oh. Susanna è intervistata addirittura da Unità TV. Senti. Io sono Susanna e nasco come ballerina, ho studiato a Roma e ho cominciato a lavorare in teatro e a fare delle tournée e poi sono entrata in televisione. Non riuscivo a prendere sonno. Ho cominciato i night club e ancora non conoscevo la strada della prostituzione. L'ho conosciuta a Milano, pagavano tantissimo e quindi ho cominciato a non capirci più niente perché guadagnavo molto. Io ho scoperto la bicicletta 10 anni fa e mi spostavo per i vari lavori con la bicicletta. E poi siccome ho questo corpo molto formoso, però non mi è mai venuto in mente di ricominciare la prostituzione. Vabbè, comunque è un'intervista tutta posata, tutta normale. Da noi ha detto che è una troia, dai, su, cioè si sente una troia, eccetera. La cosa più forte l'ha detta da noi. Io mi sento troia. Vabbè, questo è il punto. No, faccio la puttana, diciamo, non solo per bisogno, ma anche perché mi sento troia. Cioè, ho questa cosa, faccio godere tantissimo. Abbiamo capito, abbiamo capito. No, abbiamo vabbè, per essere chiari, dai, su, sennò altrimenti. Mi hanno mandato un filmato di rom che rubano, che hanno cercato di borseggiare dentro un autobus, niente di particolare, naturalmente niente di nuovo, però me l'hanno mandato, guardate come litigano, perché a un certo punto una di queste rom che stava rubando dentro un autobus, non mi ricordo in quale città, forse Milano, e dice a un certo punto: vergognati, sono incinta, perché cercavano di buttarla fuori dall'autobus, una scena abbastanza comune, no? Comunque sentiamo questi audio, sentiamo, intanto sentiamo la... Beh, che cosa vuole dire la Pavlovic? Che siamo razzisti a mandare in onda queste cose, Parenzo? A mandare in onda gli audio di gente che filma i rom che rubano dentro l'autobus? Vedi cosa? Vedi? Esageriamo? No, vedi, caro, alle volte si creano però dei mostri, no? Cioè, di fronte a un caso... rubano dentro l'autobus, rubano dentro l'autobus. Sì, va bene, dai. Io vado a lavorare adesso, vado a lavorare io. Ma vai a cagare, vado a rompere i coglioni. Vai a rompere i coglioni. Anna da Napoli, vai Anna, vai, vai Anna. Pronto? Vai Anna, dimmi, dimmi. Pronto, buonasera. Vai, vai. Allora, io quando ho sentito, stavo ascoltando la Zanzara, e ho sentito il comunicato che il capo dei centri sociali di Napoli aveva detto a Salvini che non poteva venire alla fiera della mostra d'Oltremare. Sì, poi adesso c'è un intervento del ministro dell'Interno. Bisogna, è intervenuto Minniti, perché bisogna vedere come va a finire questa storia. Esatto. Comunque questa è una vergogna. Ma lei vota Salvini? No, io non sono un'elettrice di Salvini. Tutt'altro. Salvini è lontano politicamente da me in modo siderale, però io rivendico il diritto di Salvini a poter esprimere le sue opinioni. Brava, e sinceramente mi è salito il sangue alla testa quando ho sentito che il capo dei centri sociali è intervenuto per vietare questa manifestazione. Brava. Comunque è già intervenuto il ministro degli interni napoletano, perché noi napoletani per tradizione siamo tolleranti, siamo aperti, quindi per me attenzione, c'è un comunicato della prefettura di Napoli che dice che la manifestazione Noi con Salvini, prevista per domani 11 marzo, si terrà presso la mostra d'Oltremare regolarmente. Vedi. Perché so che è intervenuto il ministro Minniti, è intervenuto giustamente. Ma quelli, se quelli della mostra là, quelli se l'hanno fatta sotto, questo è il punto. Grazie Anna. Nicolò Napoli, vai, anzi Giovanni da Napoli, poi Nicolò, Alberto e altri, vai. Giovanni, troppa gente, troppa, non fanno niente. Sì, pronto, buonasera ragazzi. Dimmi Giovanni, dimmi. Fondamentalmente mi collego a quello che diceva prima Anna, io anche penso che Salvini si debba esprimere nella nostra città. Ragazzi, però ma questo mi pare una cosa di base, non c'è neanche da discutere su questa roba qua. Assolutamente, no? Assolutamente, però c'è anche da dire una cosa cruciale. Sì. Ma se tu per anni e anni fai il tuo cavallo di battaglia della separazione e il sud deve essere staccato dal qual nord, è? Allora, e allora? Te lo devi aspettare, questo voglio dire. Ma che ti devi aspettare? Devi aspettare che quattro cialtroni di centri sociali rompano i coglioni. Ma soltanto i quattro cialtroni, cioè nella tua opinione, ma la maggioranza saranno... della città. Ma la maggioranza della città, ma che tempo c'ha da perdere a rompere i coglioni a Salvini domani alla mostra d'Oltre? Dai, Giovanni, la gente lavora. Ti voglio dire una cosa. Vabbè, ma ti ho fatto la premessa, io penso che lui si debba esprimere. però l'avrete visto anche voi in quel video in cui lui l'ha definito poi una goliardata, ma mica chiesto scusa alla popolazione. Salvini aveva una, come dire, la Lega prima era fortemente anti-Sud. Su Napoli hanno fatto, lui ha fatto quel coro famoso da tifoso del Milan, sì, certo. Ha chiesto scuse in ginocchio. No, non ricordo, non ricordo di aver visto le sue scuse in ginocchio. Ma come no? L'altro giorno al mattino l'ha fatto, è andato nella tua città e ha detto che aveva già fatto. Ma io non sto giustificando Salvini, a me non me ne frega niente. Cioè, non è che lo sto giustificando, è legittimo contestarlo fino alla morte, certo, è legittimo scendere in piazza, fare le manifestazioni autorizzate contro Salvini. Non è legittimo impedirgli di parlare. Bravo. Questo è il punto. E trasformare questa roba qui in un'ennesima guerriglia, come domani avverrà puntualmente contro speriamo la polizia. No, ma io ci posso mettere le mani sul fuoco. Voglio aggiungere anche un altro piccolo particolare che secondo me ha irritato tante persone. Ma non lo so, può darsi, ma chi se ne frega? Anche questo può essere. Ma chi ha irritato? Cosa? Salvini. No, ti voglio raccontare quello che è stata la mia percezione di questo evento. Una delle cose che io ho trovato irritanti è che uno degli organizzatori di questa manifestazione di Salvini è il figlio di un noto politico napoletano, MSI, sì, che adesso si schiera con ma ognuno probabilmente è un reato, che cos'è questo? No, non è un reato, la vedi come una paraculata, perché cioè magari lui sta cercando soltanto di trovare il consenso per avere una fortuna anche lui. Ma non lo so, ma la gente non gliene frega un cazzo di questa roba, dai, su. Guarda, io penso che tu non debba essere sempre così qualunquista. Non è vero che tutti quanti non frega niente di niente. Alcuni ragionano su certe cose. Ma allora, sì, ma certo, ma per carità, ma assolutamente forse sì. La maggioranza non ci fa neanche tanti ragionamenti. Tu invece vedi che Salvini viene, che viene con il figlio di quello che non è riuscito ad avere la fortuna, adesso la cerca attraverso ma Salvini. Sì, ma non è dopo quello aver fatto, ragazzi, dopo aver chi protesta? Scusami Giovanni, chi protesta? Lo sai chi protesta? Chi protesta sono molti dei centri sociali di Napoli. Sì, perché poi la maggior parte delle persone non frega nulla, che non vedono l'ora di fare questa i 99 POS, questa gente qua, di fare non vedono l'ora di quello creare il carrozzone casino della protesta, ragazzi. Ciao Giovanni, ciao, ti saluto. Ciao. Un po' di sgarbi. Io se non sento un po' di sgarbi ogni giorno non riesco a campare. Un po' di sgarbi contro chiunque oggi, contro chiunque. Dov'era? Aria che tira? Sì, aria che tira, vai. Voglio dire, cosa vuol dire? Che discorso è? Cosa prende Cantone? Cantone, chi cazzo lo paga? Cantone, col fratello e con un... Cioè, si pone il problema di cosa prende il presidente dell'ANAC? Che cazzo è l'ANAC? Su questo non ha torto, Cioè, è sempre il discorso sul vitalizio che ha detto da noi, che ha innescato la discussione per 9.000 euro di vitalizio, ma li merito tutti. E poi ieri ha detto che dava tutto il passato, tutto quello che ha preso per il restauro di monumenti o comunque per il patrimonio artistico italiano. Ancora sgarbi. La corruzione è l'unico tema che c'è. Allora, i magistrati cosa guadagnano? Si pone il problema a qualcuno di cosa guadagnano? Sono soldi miei per i fallimenti di Woodcock e di decine di magistrati che fanno inchieste del cazzo. Contro i grillini sul pauperismo, senti, pauperismo. Non sarà una parola troppo complicata, Valenzo, no? La gente lo capisce, no, pauperismo. Lo capisce. Vabbè, comunque. Hai mai visto qualcuno che dice quanto è pagato il direttore d'orchestra o il cantante, Hai sentito, scusa Vittorio? Questo pauperismo è la fine dell'Italia. Contro Emiliano. La proposta di Emiliano, l'hai sentita? Emiliano dice: ma Emiliano, i politici non vengono più non pagati. T'ha detto? Ma è tutta retorica demagogica di uno che non è capace di esprimere nessun concetto. Questo qui che non è capace di fare i collegamenti del gas perché distruggeva gli olivi e invece ha consentito insieme a Vendola la distruzione del paesaggio pugliese. Stia zitto, altro che non prendere lo stipendio, non lo prenda lui da magistrato, per allora esempio, perché non si rimette da magistrato? Alberto da Lucca, vai. Ciao ragazzi, siamo allo sfascio. Sì, beh, sì. In che senso siamo allo sfascio? In generale. Porca miseria, in generale, cazzo, vi dico subito, tanto sono solidale con voi, con quello che ha fatto fuori il romeno, l'albanese, con noi non devi essere solidale, al massimo devi essere solidale con il ristoratore. Ma a me Parenzo non vuole essere solidale con nessuno, vabbè, d'accordo. No, ma non trovo, non c'è nessun motivo. Io posso dire che a me di quello che è morto non me ne frega nulla. Ma perché devo essere? Se l'è andata a cercare. Ti può capitare che uno ti spari in bocca, amico mio. Mi dispiace di più quelli. Ma il tema non è questo, però. Chi ti dispiace di più, Alberto? Mi dispiace di più di quelli che sono rimasti sotto quel ponte lì del cazzo. Quello che c'entra, quello è chiaro. Certo, quello mi dispiace di più, perché quelli se ne andavano a casa, poveracci, erano vicini a casa. Vabbè, allora... ed è accaduto un ponte che non doveva cadere. Che vuoi dire? Perché in Italia, tra corruzione, ho detto, è lo sfascio, tra corruzione, persone che fanno soldi, fanno più soldi, c'è quel sindaco che... Sì, però devi essere, non essere... 5.000 euro in più ai furbetti, quel sindaco giù, l'ho visto sulla festa l'altra sera. Ieri sera mi sembra. Sì, ma non essere stai facendo confusione, calma. Cioè, che cosa vuoi dire? Aspetta, con chi ce l'hai? Generale. Cosa c'è bisogno di fronte a questo che tu c'è vedi? C'è bisogno. L'hai visto il film 2012? No, che film? O di Sendo Spazio. Di che c'è bisogno? Sì. Un dittatore? No, 2012. Di chi c'è bisogno? La fine del mondo. C'è bisogno di lui. Avevano i soldi che andavano sulle astronavi perché avevano i miliardi, quindi vedi questi politici. Ma non mi pare che siamo alla fine del mondo, amico mio, voglio che non finisca. No, ma non la fine del mondo, no. Però i terremoti, guarda giù nelle Marche. Ma che c'entra i terremoti? Hanno distrutto. Parenzo, rispondi tu, ti prego. Ma cosa vuoi rispondere ai terremoti di venerdì alle 20:51? Menestrina, questo venerdì, vale, ma siamo d'accordo, però venerdì 20:51, una minestrina calda, un goccetto di latte con cognac, una tachipirina e domani sta meglio. Ragazzi, ci sentiamo lunedì. Ciao, non mi rompete i coglioni. Ciao. Saluti. Ciao amico mio, ti amo. Ciao, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Stai zitto, ciucciacazzi. Radio 24. Libera la voglia di fare.